Alessandro Mela che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, le 7:18 minuti in questo mercoledì 13 gennaio. Siamo pronti a leggere i giornali, poi parleremo più avanti di reato di clandestinità. Allora, che forse viene cancellato, Renzi dice verrà cancellato certamente, ma quando i tempi saranno maturi. C'è anche una questione politica, cancellare il reato di clandestinità in questo momento è un qualcosa che come immagine pubblica magari è un po' delicata da affrontare per un governo. Ne parliamo perché di fatto il reato di clandestinità è un reato che, al di là del fatto che ci sia, ha un'efficacia pressoché nulla, almeno a giudicare dagli operatori del settore. Ne parleremo con la presidente dei giudici di pace, che ci spiegherà come funziona quando c'è un reato di clandestinità che scatta in tribunale. E poi sarà con noi anche Paolo Del Debbio. Dunque, questi i temi che affronteremo più avanti, ma ora è spazio ai giornali. Giornali che oggi aprono praticamente tutti sulla vicenda di Istanbul, anche il Sole 24 Ore lo mette in prima pagina insieme al titolo principale che è ancora dedicato al petrolio, petrolio sotto i $30, mini recupero per le borse, ma poi anche kamikaze dell'ISIS fa strage di turisti a Istanbul. Ecco, guardate, i titoli sono praticamente fotocopia. A Istanbul strage di turisti tedeschi. La strage dei turisti è il titolo di Corriere, Repubblica, La Stampa, Il Giorno, Il Messaggero, Avvenire, la strage dei turisti. C'è chi mette la strage dei turisti tedeschi, chi aggiunge Istanbul, ma il titolo è uguale per tutti. Il Giornale, le nostre vacanze nel sangue. Un kamikaze dell'ISIS si fa esplodere a Istanbul, 10 vittime, 8 tedesche, e caccia all'occidentale, come in Tunisia e in Indonesia, nel mirino i turisti. Libero invece mette in prima pagina notizia di ieri: guidare senza patente per Renzi non è reato. Mentre il Fatto Quotidiano, quel tritolo è per Di Matteo. Arrestati in 9, nel mirino il PM della trattativa. È una vicenda che il Fatto Quotidiano ha sempre seguito con grande attenzione. Al cuore di Istanbul è anche il titolo del Manifesto, un po' diverso dagli altri, ma sempre dedicato a quello che è successo in Turchia. Mentre l'Unità, c'è chi dice sì, è una risposta ai comitati del no al referendum sulla riforma costituzionale. Invece ci sono i comitati del sì, sia meno costi della politica, sia lo Stato più semplice, sia l'Italia più forte. Dunque un'unità renzianissima, diciamo così. Allora, però voglio partire da alcune notizie di cronaca. Una riguarda, attenzione, potrebbe riguardare tutti noi. Controllabile la mail aziendale. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, a pagina 37, così frego Mauro Meazza enorme tributi, glielo leggo prima, ti sottraggo il lavoro, caro Mauro, intanto un abbraccio, ci sentiamo più tardi alle Meazza in punto. Controllabile la mail aziendale, per la verità non solo se ne occupa il Sole 24 Ore ma anche il Corriere della Sera. Messaggi a casa con la mail aziendale, i giudici europei, si può licenziare. È la vicenda, come racconta Marina Castellaneta sul Sole, a pagina 37, la vicenda che riguarda un lavoratore rumeno, Barbulescu, che si è rivolto fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché è stato licenziato per aver usato la mail aziendale per fini privati. In pratica, che cosa ha fatto? Come si legge anche nel Corriere della Sera, aveva scritto dall'account aziendale di messaggistica Yahoo alla fidanzata e al fratello. Tutto qui? Sì, tutto qui. Non sono state trasmesse informazioni delicate o dannose nei confronti dell'azienda. La contestazione però è che non si concentrava sul lavoro. Risultato: licenziato. E attenzione, perché la Corte Europea ha detto che il licenziamento si può fare. E quindi ora c'è tutta una discussione sulla tutela della privacy, però sulle tutele da parte delle aziende di quello che è il diritto anche di portare avanti il bene dell'azienda stessa nei confronti dei lavoratori che magari perdono tempo, come in questo caso, o fanno i loro comodi durante le ore di lavoro. Sta di fatto che attenzione a tutti, la mail aziendale si può licenziare sulla base di questo, e è una sentenza sicuramente interessante che fa discutere, come una sentenza interessante e, se volete, fa discutere perché gli stessi protagonisti l'hanno resa nota per fare discutere, per aprire un dibattito, è quello che è successo a Bergamo. Lo racconta Il Giorno a pagina 21. Malata di sclerosi può adottare. Malata di sclerosi multipla può adottare. Il giudice dice sarà una buona mamma. E fino a qui uno dice, che male c'è? Beh, il fatto è che il PM, il magistrato, invece, aveva negato l'adozione a una coppia, marito e moglie, perché la moglie, proprio per il fatto che la moglie era affetta da sclerosi multipla. Il PM che aveva seguito la pratica aveva dato parere negativo, ma marito e moglie non demordono, si affidano a un avvocato, presentano ricorso attraverso l'avvocato Rocco Di Sogra, che dice oggi esultante: abbiamo dimostrato, il giudice lo ha recepito, che la sclerosi multipla non può essere considerata una malattia solo invalidante, tanto da negare l'adozione di un figlio. Non è così. Grazie ai passi avanti della ricerca scientifica è possibile vivere con questa patologia e mantenere buone prospettive e una qualità di vita. Tenendo sempre presente l'interesse superiore del minore, abbiamo dimostrato come i coniugi siano in possesso delle risorse affettive e educative necessarie per adottare uno o due bambini e dar loro stabilità e sicurezza. Dunque, il principio, come racconta Michele Andreucci a pagina 21 del Giorno, è che la malattia di un genitore non può costituire ostacolo all'adozione di un figlio. È ciò che la Corte d'Appello di Brescia ha sentenziato dopo che c'è stato un ricorso a Bergamo, di un paesino della bassa bergamasca, di una coppia, 46 anni lui, 39 lei, ed è lei affetta da sclerosi multipla. Beh, interessante, e ve la cito dal Giorno. Purtroppo, per rimanere in campo sanitario, in questo caso mala sanità, si può usare questa parola, ieri si è registrata la morte di una ragazza di 19 anni, Gabriella Cipolletta, che viveva a Mugnano in provincia di Napoli ed era l'undicesima settimana di gravidanza. Aveva deciso di abortire temendo forse malformazioni causate da un farmaco assunto durante o poco prima della gravidanza. Ha deciso di abortire. Questa ragazza però è morta per un'emorragia poco dopo l'aborto. Muore dopo l'aborto in ospedale. L'emorragia al rientro in reparto, racconta il Corriere della Sera, ma su tutti i giornali, anche Repubblica dedica due pagine a questo tema, anche perché associata a questa interruzione di gravidanza ci sono le vicende di cronaca che invece hanno fatto discutere molto durante le vacanze di Natale, e cioè il fatto che quattro donne siano morte durante o dopo il parto, per parto di fatto, in quattro ospedali diversi tra il 25 e il 31 dicembre dello scorso anno. Ebbene, Repubblica con Corrado Zunino racconta, pagina 21, la verità del Ministero sulle vittime in sala parto. Ci sono stati errori in tre casi su quattro. L'unico ospedale a cui non è stato fatto rilievo, secondo il rapporto preliminare degli ispettori del Ministero della Salute, è il Sant'Anna di Torino. Mentre gli ospedali civili di Brescia, il Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona, il San Bassiano di Bassano del Grappa hanno mostrato gravi lacune nelle fatali circostanze. Si parla di serie criticità all'interno del rapporto degli ispettori. Quindi dei quattro ospedali dove tra il 25 e il 31 dicembre sono morte donne per parto insieme ai bimbi che portavano in grembo, tre hanno mostrato colpe gravi. In queste strutture in cui ci sono state colpe, gli ispettori del ministro Lorenzin hanno evidenziato un evidente rischio di infezione. Ascoltati i parenti delle vittime, i sanitari intervenuti, lette le cartelle cliniche, Il responsabile della task force a proposito del presidio di Brescia ha segnalato, in merito al decesso della signora Giovanna Lazzari, 30 anni, all'ottavo mese di gravidanza, è emersa la necessità di migliorare la valutazione delle condizioni di rischio potenzialmente presenti in gravidanza al momento di ricovero, con particolare riferimento alla problematica delle infezioni. Problemi simili a Bassano del Grappa, dove è morta Marta Lazzarin, 35 anni, al settimo mese della prima gravidanza. Gli ispettori hanno scritto: per la sepsi in gravidanza necessaria identificazione precoce e monitoraggio continuo del quadro clinico. Insomma, problemi clinici rilevati in 3 ospedali su 4. Questo fa sapere Repubblica. C'è una notizia nuova per uno dei Marò, vicenda ormai davvero incredibile. Massimiliano Latorre, che si trova in Italia per una licenza per malattia. Questa licenza per malattia scade oggi, ma Latorre non tornerà in India. Scaduta la licenza per malattia, Latorre non tornerà in India. Danilo Taino lo racconta a pagina 17 del Corriere della Sera, la notizia però c'è anche su altri giornali, ma racconta il Corriere: oggi a New Delhi si potrà forse capire se la vicenda dei due Marò è stata finalmente messa su un binario nuovo, perché si riunirà in India la Corte Suprema per fare il punto della situazione. In particolare interessante sarà capire 2 cose. Innanzitutto l'atteggiamento nei confronti della licenza di Latorre. Ieri il presidente della Commissione Difesa del Senato, Nicola Latorre, che è solo un senatore omonimo ma con nessuna parentela con il Marò, ha detto che il fuciliere della Marina non tornerà in India. Questa non è però l'esatta posizione ufficiale del governo italiano, il quale ritiene che il congelamento della situazione deciso ad Amburgo comporti l'allungamento dello stato attuale del Marò, ma ha chiarito di rimettersi alle decisioni che su questo prenderà il collegio arbitrale formato per decidere dove tenere il processo ai militari italiani. Rimarrà dunque in Italia fin quando gli arbitri non si saranno espressi. La vicenda è molto complicata, molto intricata, d'altronde da anni che va avanti senza una soluzione. Sta di fatto che la notizia più importante è questa: Massimiliano Latorre non tornerà in India, anche se è scaduta la licenza per malattia. Ma eccoci qui al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata, l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. È su Libero. Alessandro Gonzato racconta la storia di costui, ladro, pirata con precedenti, e il giudice lascia andare il rom. Questo è il titolo. Ha spaccato il finestrino di un'auto parcheggiata, dalla quale con l'aiuto di un complice ha rubato cartoni di sigarette elettroniche per un bottino di 2.500 euro. Durante la fuga a bordo di un'altra vettura ha investito il tabaccaio, che di ritorno dai monopoli dove aveva acquistato la merce si era disgraziatamente fermato per una commissione. Poi è stato preso. È successo alle porte di Verona, ce ne sarebbe abbastanza per chiedersi come mai uno di questi due rapinatori, tale Slagan Usovic, 22enne, nomade francese di origine bosniaca, ora non si trovi dietro le sbarre, ma a casa, ai domiciliari, al calduccio, in attesa del processo, anche perché aveva una sfilza di precedenti che Libero elenca. Incredibile, alle porte di Verona, ladro, pirata, precedenti, e il giudice lo lascia più che andare ai domiciliari. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alessandro Milan, il dai lama dell'informazione. Ormai si continua con il Dalai Lama. Va bene, allora cari ascoltatori, come detto tutti i giornali aprono sulla vicenda di Istanbul, un kamikaze per Erdogan. Il kamikaze proveniva dalla Siria ed era uno dell'ISIS, kamikaze che si è fatto esplodere a Istanbul. Sono 10 morti, molti feriti. 8 di queste vittime sono turisti tedeschi. E come dire, tutte le cronache raccontano di come chi ha colpito abbia proprio voluto colpire i turisti, li ha seguiti, li ha fatti, li ha messi nel mirino e poi si è fatto saltare in aria. Questo raccontano tutte le cronache. Vi segnalo l'intervista a Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e la sicurezza europea, intervistata da Repubblica da Andrea Bonanni. Dice: è una corsa contro il tempo per fermare il terrore. L'ISIS sta reagendo all'assedio del mondo. L'unica guerra che mi sento addosso, dice la Mogherini, ed è drammatica, è la guerra contro il tempo. I fatti che lei ha citato, Colonia, la Libia, Istanbul, Tunisi, dimostrano che c'è un'accelerazione e un'estensione geografica di alcune tendenze già emerse l'anno scorso. E non possiamo permetterci di perdere questa battaglia contro il tempo per fermare questa valanga di follia che incombe. Non è la prima volta che la Turchia subisce un attentato. Sappiamo da mesi di avere un interesse comune nel contrastare e sconfiggere Daesh, che è l'altro nome per l'ISIS. Per questo abbiamo rafforzato la nostra collaborazione nell'antiterrorismo con la Turchia e altri paesi della regione. Tra l'altro si parla anche di Libia in questa intervista. La domanda è questa: c'è una possibilità di intervento militare europeo in Libia? E risponde la Mogherini: se c'è una lezione che abbiamo imparato è che queste crisi non si risolvono dall'esterno, devono essere i libici a indicare le soluzioni. Non credo che il nuovo governo di unità libico chiederà un intervento militare dell'Occidente. Credo invece che domanderà il sostegno in una serie di settori: aiuti umanitari, ricostruzione, creazione di nuove forze di polizia, loro addestramento per far fronte alla minaccia terroristica. Però è interessante questa questione della Libia, perché invece sul Messaggero si racconta di momenti di grande tensione, di clima pesante. Ieri a Palazzo Chigi, in una riunione proprio sulla Libia tra Renzi e Gentiloni, il ministro degli esteri, il ministro della difesa Pinotti, il ministro degli interni Alfano, il capo dei servizi segreti Massolo. Perché? Perché si parla di clima, di tensione? Lo racconta Alberto Gentili a pagina 7 del Messaggero. Perché la parola chiave sulla Libia è caos. È caos in Libia, altro che governo di unità, pacificazione. Il sospetto ricorrente è essere di nuovo scavalcati da francesi e americani come nel 2011 e dunque addirittura, sentite qui, l'opzione presa in esame per la prima volta a Palazzo Chigi è quella di un intervento militare per combattere le milizie dell'ISIS e così fermare l'espansione del califfato a pochi chilometri dalle nostre coste. Il titolo del Messaggero è: Libia, Palazzo Chigi valuta raid anti-ISIS con gli alleati. Bah! Ve la vedete voi l'Italia che da sola o con gli alleati prende questa iniziativa militare e fa raid anti-ISIS? Bah, io sono abbastanza scettico. Comunque la questione è questa. Sempre sul Messaggero c'è una notizia abbastanza inquietante che riguarda queste vicende ultime, in particolare quella di Parigi, dove il tunisino Tarek Belgacem, se si chiamava così perché aveva 50.000 alias, ha tentato l'assalto al commissariato, non me lo sapete, è stato ucciso con una finta cintura esplosiva. Il terrorista di Parigi era registrato come profugo in Italia. Già si sapeva che era in Germania, ma adesso Silvia Barocci racconta a pagina 3 che era registrato anche in Italia. Aveva fornito nomi e nazionalità in mezza Europa. In realtà, ora si scopre che questo tunisino, nei suoi spostamenti tra Francia, Germania, Lussemburgo, Svizzera, era passato anche per l'Italia. Perché era emerso che l'uomo aveva fatto la richiesta in Italia, dove era stato fotosegnalato come primo paese come richiesta per essere profugo. Così, 3 anni fa, il 19 giugno, le autorità svizzere, dove c'è l'ufficio che controlla il regolamento di Dublino, lo aveva rispedito in Italia. E appena atterrato a Malpensa, però, la questura di Varese gli notificò un provvedimento di espulsione perché non aveva i requisiti per ottenere l'asilo, anche per via di tutti quegli alias che da clandestino aveva fornito le autorità italiane. Quindi la sua presenza in Italia è stata molto breve, è sbarcato, espulso, chissà se è uscito subito, però sta di fatto che è passato anche da qui. A proposito sempre di ISIS, 3 giorni fa la notizia era un trafiletto sul Giorno, oggi è diventata una pagina a Vignola, in provincia di Modena, dove ci sarebbe una banda di burloni, o meglio sarebbe dire deficienti burloni, cretini burloni, che giocano un po' a fare quelli dell'ISIS. Sarebbe una banda di 2 tunisini, un marocchino e un albanese, che poi si sono costituiti, che hanno usato una pistola scacciacani interrogando 5 italiani sedicenni, fermandoli per strada dicendo: siete cristiani o credete in Allah? Li hanno messi in fila, come fanno appunto quelli dell'ISIS, i terroristi veri, e poi li uccidono. E poi hanno detto: ma era uno scherzo, andate via. Beh, oggi Rita Bartolomei è inviata a Vignola e racconta di un paese che è abbastanza preoccupato. A scuola giocano a fare l'ISIS, falsa esecuzione, appaiono le ronde in strada. Il sindaco, che ovviamente è sempre più allarmato, saranno 4-5 burloni deficienti, però certo di questi tempi questo crea molta molta tensione, talmente tensione che sapete cosa succede a Marsiglia, sentite qui, dove la libertà deve essere così limitata. Il presidente del concistoro ebraico di Marsiglia, Zvi Ammar, dopo aver detto lancio questo appello con dolore, ha invitato gli ebrei di Marsiglia a non uscire di casa con la kippah, il tipico copricapo ebraico, cioè toglietevela, perché così non siamo identificabili immediatamente. Togliamoci la kippah, siamo troppo a rischio. C'è anche una polemica, perché il Gran Rabbino di Francia dice che questo atteggiamento è disfattista, come dire, è già un darla vinta ai possibili attentatori. Però sta di fatto che il clima dimostra, questo lo racconta Repubblica con una pagina, pagina 7, il clima dimostra che la situazione è quella che è. Qui in Italia intanto si discute sempre del reato di clandestinità, anche il vicepresidente del CSM, noi ne parleremo alle 8.40, dalle 8.15 in poi in realtà, il vicepresidente del CSM Legnini, Giovanni Legnini, al Corriere della Sera dice in maniera molto chiara: prima si toglie il reato di clandestinità e meglio è. E beh, interessante. Condivido il punto di vista del procuratore antimafia Roberti. Questo reato, oltre a non avere risposto alle attese, costituisce un ostacolo alle indagini, in particolare in materia di traffico di esseri umani. Mi pare che l'opportunità di superarlo sia largamente condivisa. Quindi anche il vicepresidente dell'autogoverno dei giudici dice via il reato di clandestinità. A proposito, sapete quali sono i numeri, spesso si è fatto il punto, i numeri degli immigrati accolti nelle parrocchie? Oggi fa il punto Avvenire, dopo l'appello del Papa, accogliete i migranti, ogni parrocchia accolga un migrante. Accolti nelle parrocchie 27.000 migranti. Pagina 7 di Avvenire. Avvenire, vabbè, è il giornale dei Vescovi, lo dipinge come un grande successo, grande solidarietà da parte delle parrocchie, ma 27.000 migranti, poi si legge nell'articolo, il 6 settembre scorso, quando c'è stato l'appello del Papa, erano 23.000 già quelli accolti, quindi hanno accolto 4.000 dopo l'appello del Papa. Per contare tutte le parrocchie in Italia, certo non è uno a parrocchia, come ha detto il Santo Padre. Comunque, accolti nelle parrocchie 27.000 migranti, dall'appello del Papa sono 4.000 in più. Questi i numeri. Caro Maurino Meazza, buongiorno, come stai? Oggi c'è la Coppa, Coppa! Buongiorno, buongiorno, vedo che ti interessi molto delle questioni religiose e spirituali da quando ti chiamano Dalai Lama, quindi mi fai precedere da questo tipo di informazioni. Vabbè, mi fa piacere, sì, oggi faccio tanti auguri, magari poi ti mando un'email per farti gli auguri, non so se questo sarà censurabile ai sensi forse forniremo insomma in questo modo un motivo valido per il nostro licenziamento. Rispondimi, così almeno ci licenziano entrambi. ti mando un email, oppure la giro alla direzione personale dicendo: vedete un po' come usa la mail, ma mettiamoli in copia direttamente. E volevo dirti, mi stai trascurando la riforma Madia? No. Sì, non è nel tuo cuore, diciamo la verità. Allora, la riforma Madia, guarda che è importante, la riforma pubblica amministrazione, si attende venerdì il varo di una serie di provvedimenti attuativi, ad esempio con una decisa riduzione del numero delle camere di commercio. Lo leggi, lo puoi leggere sul Sole 24 Ore di oggi, nella pagina 19, appunto, camere di commercio riordino entro 4 mesi, poi c'è il passaggio dei forestali tra i carabinieri, poi c'è la disposizione per tagliare le società partecipate, insomma un menu molto ricco da questa riforma che tu invece colpevolmente, diciamo. No, non dico che lo ignori, ma insomma un pochino me la trascuri. Va bene, se però non riesco a scaldare il tuo cuore con questa riforma, allora ti invito a leggere l'intervista che facciamo alla commissaria Vestager, spero di averlo pronunciato correttamente, sono praticamente sicuro di aver sbagliato la pronuncia, perché si occupa della Bad Bank. Sarebbe, ci sono molti crediti deteriorati, così si chiamano, nelle banche. L'Italia vorrebbe fare un soggetto, vorrebbe creare un soggetto dove conferirli, ma la UE non è d'accordo. E così è un nuovo capitolo di queste incomprensioni tra l'Italia e la UE a proposito del sistema bancario. Però la commissaria dice che insomma, se facciamo un uso dei fondi pubblici dobbiamo rispettare alcune regole. Le trovi tutto in questa intervista che Beda Romano fa oggi sul Sole 24 Ore. Oh, naturalmente tra le molte altre cose ti voglio dire, parliamo anche del contratto degli alimentaristi, sono 400.000 persone per le quali le trattative si sono interrotte e non sembrano avere dei punti favorevoli, ne parliamo come sempre nelle pagine di Imprese e Territori. E poi ti voglio dire, se per caso non ci licenziano per via della mail, ma tu volessi dimetterti, così, tanto per fare un gesto anche simpatico o antipatico nei nostri confronti, allora sappi che dal 12 di marzo sarà tutta una procedura informatizzata nuova. Ah. Lo trovi tutte le spiegazioni sulle pagine di Norme e Tributi, che almeno quelle, almeno per finché non ci licenziano, leggi religiosamente, ma anche dopo che ci avranno licenziato. Anche perché così scoprirai che abbiamo anche un'IVA al 5% da gennaio. Non lo sapevi? No. Abbiamo un'aliquota IVA al 5% perché si applica per alcuni servizi delle cooperative sociosanitarie, ma adesso il tempo a nostra disposizione è scaduto, ti scrivo tutto per mail, poi vediamo che cosa succede. Per il momento, caro Alessandro, tanti tanti cari auguri per la serata. Grazie. E soprattutto, traffico. Perché Alessandro Milan è Alessandro Milan. Oh mamma mia, torna Sanremo. Aiutateci. Vabbè, allora la politica italiana, la vicenda Quarto ormai si avvia. Io non so quanto poi interessi in profondità moltissimi italiani, ma ci sono paginate. Il tema politico più interessante è: ma davvero allora il Movimento 5 Stelle, che dice sempre di essere migliore degli altri partiti, diverso dagli altri partiti, è più puro degli altri partiti, è così? Allora, oggi Fiorenza Sarzanini insiste, perché ieri il direttorio, cioè gli esponenti più noti del 5 Stelle, tra cui Di Maio, Fico, Di Battista, si sono presentati in video a dire: noi non sapevamo nulla delle minacce di De Robbio, consigliere poi cacciato dal Movimento 5 Stelle, al sindaco Rosa Capuozzo, e quereleremo chi dice il contrario. Fiorenza Sarzanini però per il secondo giorno insiste sul Corriere della Sera. Ecco le frasi del direttorio e le intercettazioni di Rosa Capuozzo, in particolare oggi con Daniela Monfrecola, pubblicata sui giornali, nelle quali Rosa Capuozzo dice: si deve gestire mediaticamente in un certo modo questa cosa. E parlano di De Robbio, di Affico, dice la Monfrecola, di non arrivare tra una settimana, se no noi tra una settimana non ci arriviamo. E Capuozzo dice: sì, spero che venga anche Luigi, cioè Di Maio, che è molto più duro di Fico. Quindi, secondo queste telefonate, secondo il Corriere, il primo cittadino dice di aver chiesto interventi al direttorio. Poi, per la verità, interrogata dal PM Woodcock, la stessa Rosa Capuozzo dice: non dissi nulla ai vertici. Quindi, anche per la stampa, ci sono però due versioni. Non dissi nulla, così dice la procura, ma nelle intercettazioni sosteneva il contrario. Ah, ovviamente la vicenda dell'espulsione del sindaco quasi è già passata in secondo piano. Rosa Capuozzo è stata espulsa di fatto dal movimento. Lei dice: io vado avanti. C'è questo braccio di ferro, c'è Renzi che dice: ora è chiaro che il Movimento 5 Stelle non è migliore degli altri. Libero però ieri ha fatto notare che del PD ci sono 83 indagati in un solo anno. E oggi Libero, tra l'altro, insiste su questo tema con un articolo di Paolo Emilio Russo, pagina 5, a dire: ma i boss, in realtà, i boss di Quarto volevano votare il candidato del PD. Ma dopo che il Consiglio di Stato ha escluso i Dem, e quindi il Partito Democratico, dalle elezioni, ecco allora che si sono buttati su questo candidato del Movimento 5 Stelle. Tra l'altro, chi sono questi boss quando si parla di questi boss? Beh, l'articolo più interessante in questo caso è a firma Marco Lillo sul Fatto Quotidiano. Don Alfonso, le minacce del boss funerario che nessuno ha fermato. È la storia dei Cesarano, vale a dire la famiglia che controlla a Quarto tutti i funerali, il mercato dei funerali. Una storia, racconta Marco Lillo, abbastanza assurda, visto che i carabinieri hanno chiesto l'arresto del boss Cesarano. La sua ditta è stata usata ad agosto a Roma per il funerale di Casamonica, ma la pratica è bloccata. Che vuol dire bloccata? Cioè, i carabinieri hanno chiesto l'arresto, ma Marco Lillo racconta in questa pagina del Fatto, molto molto interessante, pagina 4, che la pratica per la richiesta d'arresto è bloccata in procura. Boh. Succede. Quarto, Napoli, Italia. Qualche notizia di cronaca, ve la devo dire così velocemente. Ma intanto c'è un'intervista straordinaria a Francesca Sciauchi, colei che è la papessa sotto processo insieme ai giornalisti in Vaticano per la fuoriuscita di notizie. Un'intervista a Libero, intervistata da Andrea Morigi. Beh, la parte più interessante, la risposta più incredibile è questa. Ma lei nelle telefonate invitava Monsignor Balda ad andare da una sua cugina che lei definì morbida. È morbida. E la risposta della Sciauchi: stavo parlando di una cosa da mangiare. Ecco, io, diciamo, in una pagina di intervista ho preso questa domanda e questa risposta e ho detto: vabbè, ma qui siamo nel campo dello straordinario, del surreale, dell'irreale, dell'incredibile. E sono passato oltre, ovviamente. Sapete cosa fa la Diesel? La Diesel, quella di Rosso, di Renzo Rosso, si è messa a fare pubblicità sui siti porno, cioè pubblicità dei prodotti Diesel, i jeans, i reggiseni, che ne so, insomma, i prodotti della Diesel sui siti porno. Perché? Perché dicono alla Diesel: lì va la gente a guardare i siti porno. E allora sui siti porno è apparsa la pubblicità della Diesel, con tanto di polemiche, eccetera. Vabbè. Lo raccontano un po' tutti i giornali. Francesco Furlan dedica una pagina su Repubblica a questo tema. Pagina 25. Non vi sto a dire i misteri su David Bowie. Oddio, iniziano. Dov'è il corpo? Dov'è David Bowie? Sarà con Elvis Presley sull'isola deserta, non lo so, ma iniziano i complotti sulla morte di David Bowie. Ve lo dico, preparatevi. Ma eccoci qua, la carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, un'intera pagina della Stampa, Fabio Sindici, un'intera pagina su un algoritmo studiato da ricercatori in America che hanno studiato 170.000 foto degli ultimi 100 anni per vedere come si è modificato il sorriso di fronte all'obiettivo del fotografo. Eravamo timidoni esibizionisti a inizio secolo, 1900. Ora abbiamo imparato a sorridere davanti alla macchina fotografica. Ma chi se ne frega!